Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi una puntata in cui l'età può fare la differenza. Oggi parliamo dei cinquantenni. A 50 anni si svolta, ve ne siete accorti? Guardatevi attorno e convincetevene. Lo dico a chi ha superato i 40 ed è nella cosiddetta età di mezzo, lo dico a chi i 50 anni ce li ha già. Allora, indipendentemente dagli ANTA che avete superato e agli ANTA verso cui state veleggiando, il bollettino dice avanti tutta, fidatevi, perché anche la ricerca ci offre buoni motivi per affrontare e vivere questo periodo della vita in pienezza. Invito chi ci crede e chi non ci crede, per esperienza vissuta o per sentito dire, a intervenire in diretta al nostro numero verde 824 0024. I messaggi come sempre al 349 238 6666. Che cosa vi aspettate dai 50 anni? Che cosa hanno portato di nuovo e di diverso nella vostra vita? Proviamo insieme, direi, a fare un bilancio. È andata meglio o peggio di come vi aspettavate? E che cosa vi ha stupito, spiazzato, rassicurato? In linea con noi oggi la dottoressa Gianna Schelotto, psicoterapeuta e scrittrice. Benvenuta Gianna. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ricordo un libro, 50 anni in fuga. Sì, si chiamava Uomini altrove. Uomini altrove, che in un certo senso fa proprio al caso nostro. Da che cosa fuggivano questi cinquantenni? Lo riscriveresti? Cambieresti qualcosa? Sì, no, lo riscriverei con ancora più cognizione di causa, nel senso che il fenomeno che avevo a quel tempo individuato mi pare che sia sempre più presente, sempre più forte, e cioè quest'idea che a 50 anni gli uomini sognino un altrove e nello stesso tempo sognano di restare dove sono e non sono mai contenti di stare dove sono. Cioè, se sono a casa con la moglie vorrebbero essere altrove, se sono altrove con una compagna più o meno improvvisata vorrebbero essere con la moglie. Sono alla ricerca continua di un altrove che non sanno nemmeno ben definire. 824 0024 se volete intervenire. Qua in studio con me Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Io ti ho invitato per occuparti dei cinquantenni che spesso diventano padri o ripadri, ma soprattutto perché, Alberto, oggi tu sarai un po' la nostra cavia, perché tu sei nell'età di mezzo, hai superato i 40 e hai ancora un po' di strada per arrivare ai 50, quindi non sei ancora altrove, no? Sei fermo. Sì. Ti senti più quarantenne o cinquantenne? Ma io mi sento davvero un quarantenne che vive nel qui ed ora, mi sento molto appassionato proprio dell'esistenza, di quello che mi sta offrendo. Non vedo i 50 anni come un traguardo, come un passaggio di svolta, li vedo in continuità con la vita che ho vissuto fino ad ora. Allora, partiamo da una ricerca che porta un po' acqua al nostro mulino. Se è vero che, come si diceva, la vita comincia a 40 anni, la felicità, amici, arriva a 50. In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, che ci svelerà il motivo di tutto ciò. È primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professor Barbanti, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Dunque, la notizia è anche anagraficamente per me importante, visto che ne ho quasi 49, ma direi che ci sono senza dubbio dei motivi importanti anche di ordine biologico. Innanzitutto, quello che dice questa ricerca è che la curva della felicità ha un andamento ad U, e cioè si è felici da molto giovani, si tende ad essere più depressi eventualmente intorno ai 40 anni e si torna ad essere felici dai 50 in su. Cosa succede? Il primo calo di felicità entrando nel mondo del lavoro, delle relazioni, della famiglia è legato alle necessità di pianificare, di attuare ciò che si è studiato, ciò per il quale si è a lungo sognato, insomma l'arrivo degli oneri. Poi c'è un lungo periodo della vita in cui noi siamo, e forse i 40 anni nel mondo occidentale lo rappresentano, come l'aereo in fase di rullaggio, motori al massimo, velocità massima, ma ancora non si decolla. Successivamente succede qualcosa di diverso. Innanzitutto mi preme sottolineare un aspetto. Un uomo a 50 anni, e questo studio, badate bene, è stato fatto su varie popolazioni, non solo popolazione americana, è attualmente biologicamente diverso rispetto al passato. La prevenzione, lo stile di vita, quella che noi chiamiamo la riserva cognitiva, che è frutto, ed è bizzarro pensarlo, di somma di alimentazione, sport e attività culturale, rende il cinquantenne mentalmente e anche fisicamente più giovane. Quindi questa è la base biologica su cui poi può inserirsi una vita più felice. E poi è un'età in cui l'esperienza si completa, si può dire che un cinquantenne ha ormai visto tutto, non deve dimostrare nulla, chi ha fatto, semmai può decidere di godersi la vita, e quanti cinquantenni, purtroppo direi da un punto di vista relazionale, prendono anche strade particolari. E una cosa importante, a 50 anni si ha ancora, si è tra due cuscini generazionalmente parlando, hai alle spalle la generazione dei tuoi figli che hanno 15-20 anni e di fronte hai ancora molte volte qualche genitore. E quindi è una situazione in cui puoi dare il meglio di te, puoi guardare quello che hai costruito e soprattutto ti sei alla fine accettato, è terminata questa discrepanza tra i tuoi desideri e ciò che in realtà riesci a ottenere. Il tutto però, e torno a sottolineare, benedetto da una situazione cognitiva, da una situazione di salute fisica e neurologica il più delle volte migliore nel passato. Questo che credo che sia l'excursus per legittimare lo studio straordinario che è stato pubblicato. Professor Barbanti, grazie, ci ha davvero tirato sul morale, quindi avanti tutta anche per lei. Mi raccomando. Sì, ma ancora un annetto e mezzo, quindi adesso mi preparo. Se la goda. Grazie al professor Barbanti, dottoressa Schelotto, Gianna, mia, che cosa ti sollecita la riflessione del professor Barbanti? Purtroppo l'ho sentita in parte perché l'audio non era perfetto e quindi ho fatto fatica a seguirlo, ma certamente le cose dette dal professore sono le cose che vivono tutti i cinquantenni di oggi, e che si ritengono a 50 anni nell'amore, nel lavoro, negli affari, hanno di sé l'idea di essere guerrieri, forti e vittoriosi, però all'improvviso è come se un conflitto li attanagliasse, cioè come se loro dovessero scegliere tra ciò che sono diventati e quindi il successo e quindi, come dire, una vita che non richiede più loro sacrifici, impegni, eccetera, quindi tra ciò che sono diventati e ciò che scoprono di voler essere. È come se nel momento in cui prendono atto dello stato in cui sono, anche se si tratta di uno stato vittorioso, di uno stato lusinghiero, è come se venisse in loro una sorta di rimpianto per l'idea che avrebbero potuto fare qualcosa di diverso. In questo senso gli uomini sono altrove, nel senso che ciò che hanno li appaga, ma fino a un certo punto gli fa venire in mente che avrebbe potuto essere diverso. Naturalmente parleremo anche di donne, di splendide cinquantenne, però agli uomini, alle donne, a tutti i miei ascoltatori voglio lanciare la sfida di oggi. Cosa vi hanno dato in più i vostri 50 anni? Cosa eventualmente vi hanno tolto? Se questa è l'esperienza che voi vivete, scriveteci e chiamateci e ne parleremo insieme a tutti i nostri ospiti. 800 24 00 24. Una mela al giorno. Ed oggi compie 50 anni anche la pillola contraccettiva, e il suo è un compleanno perfettamente in linea, direi, con il tono della nostra trasmissione, perché in 50 anni la pillola ha cambiato formulazione, migliorando in efficacia, diminuendo i suoi effetti collaterali e raggiungendo un livello di sicurezza davvero notevole. Di questo compleanno molto speciale parliamo col professor Arisi, consigliere nazionale della SIGO. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Come è cambiata in 50 anni la pillola anticoncezionale, professore? Beh, diciamo, in termini essenziali si sono ridotte le dosi dei suoi componenti, cioè dell'estrogeno e del progestinico, però è intervenuto qualcosa di nuovo del tutto recentemente, perché l'estrogeno, che era solitamente esclusivamente di tipo sintetico, invece è entrato con un estrogeno naturale che è assolutamente uguale all'estrogeno prodotto dall'ovaio della donna. Per quel che riguarda i progestinici, cioè l'altra componente, oltre alla riduzione delle dosi, sono entrati, diciamo, nella pratica clinica quotidiana dei progestinici attivi attenti a fenomeni collaterali che entrano nella qualità della vita, come quelli appunto che sono capaci di influenzare l'estetica, cioè capaci di ridurre la peluria piuttosto che la pelle grassa, piuttosto che l'acne e fenomeni di questo tipo. Quindi c'è stato un cambiamento notevole di dosi ma anche di qualità dei risultati. Professor Arisi, noi oggi in questa puntata vogliamo fare un bilancio, pensando quindi alla nostra cinquantenne. Abbiamo ancora dei traguardi da raggiungere? Abbiamo ancora dei tabù da superare? Dove ci dirigiamo? Ma io credo che senz'altro la pillola oggi ha disintegrato, come dire, molti obiettivi di tipo medico, per esempio, come tutti sanno, credo, ha permesso di ridurre in una certa quantità di tumori dell'ovaio e dell'endometrio, ma soprattutto è entrata molto nell'ambito del sociale, come dire, portando una rivoluzione, perché è riuscita a scindere il nesso che fino a, come dire, a subito prima era difficilmente scindibile tra sesso e riproduzione, quindi ha portato a un empowerment della donna, a un valore molto più importante della donna all'interno della società, donna la quale può scegliere se affrontare o no una gravidanza. In altri termini, la pillola in termini sociali ha messo proprio la coppia nuda davanti alla propria sessualità. Altri tabù, però ci sono tanti tabù ancora da superare, professor Arisi. Non c'è dubbio, lei ha ragione a sottolineare questo aspetto. Credo che i tabù più importanti sono quelli che in un qualche modo la pillola possa far male. Forse in alcuni momenti può essere non la soluzione indicata, cioè anche la pillola può avere alcune sue, per quanto poche in termini numerici, controindicazioni, ma soprattutto bisogna sfatare dei tabù, tipo la pillola fa ingrassare o fa venire la cellulite, come dire, leggende metropolitane di questo tipo, oppure quando si smette la pillola vengono dei gemelli, informazioni, cioè sulla contraccezione ormonale, che possono appianare queste cose, sono assolutamente necessarie, sennò queste leggende metropolitane continuano a navigare tra di noi e soprattutto tra i giovani, le giovani, che sono quelli che in un qualche modo invece, ahi noi, devono affrontare più decisamente questo tipo di problema, vedo davanti tutta l'età riproduttiva da giocare, insomma. Certo. Professore, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Pronto soccorso. 50 anni, me ne vanto o no? 800 24 0024, Gianni da Genova, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare di una, proprio su Radio 24, un paio d'anni fa, parlando di pensioni, cose varie, un signore che aveva 55 anni diceva che si lamentava e non riusciva ad andare in pensione. Il commentatore, il vostro ospite, un qualche personaggio penso importante, non mi ricordo chi era, ha detto: ma a 55 anni si è giovanissimi. E anche la vostra trasmissione attualmente mi pare che vada su questo binario, però io volevo far notare che la maggior parte di lavoratori, non credo che siano tutti o impiegati eccetera, a volte si fanno dei lavori che ci spacca la schiena. Sì. Io ho 56 anni, ho ernia al disco, ho artrosi varie eccetera eccetera, andare a lavorare veramente mi pesa da matti, anche perché se uno ha una vita normale da lavoratore dipendente con lo stipendio non può permettersi, cioè fa un lavoro in casa, devo farselo lui, non può chiamare qualcuno perché gli costa un sacco, non può chiamare babysitter, problemi dei figli eccetera, deve pensarci lui. Gianni, noi non stiamo dicendo che 50 anni sono giovanissimi, noi diciamo che 50 anni è un'età, soprattutto oggi rispetto al passato, in cui uno se la può giocare con una maggiore consapevolezza. I problemi del lavoro, la pensione, gli acciacchi eccetera, questi non possiamo risolverli sicuramente in questa trasmissione oggi, e ne dobbiamo tenere conto, Alberto. Sì, credo che la sollecitazione di Gianni sia però proprio quella, un po', che con questa idea che a 50 anni si sta ancora molto bene, che a 60 anni vedremo poi si sta ancora molto bene, uno rischia di sentirsi poi quasi obbligato, e la legge a volte giovane, a rimanere giovane e soprattutto a rimanere in un posto di lavoro, mentre effettivamente i 50 anni possono essere proprio anche un periodo di riprogettazione. Tra i 50 e i 60 uno può cominciare a ridefinire cosa veramente vuole, magari dal suo tempo libero. È la svolta di cui parlavamo. Andiamo ad Angelo dalla provincia di Brescia. Buongiorno Angelo. Buona giornata a voi. Allora, mi dica i suoi anni. I miei anni sono 63. Allora, nel 92 ne avevo 46, il 30 di marzo ho deciso di dimettermi da dipendente pubblico perché non ce la facevo più. Sì. Il 2 di aprile, non l'ho aperto il giorno dopo, per un po' di scaramanzia non guasta mai, il 2 di aprile ho aperto una partita IVA e mi sono messo in proprio. Io da ragazzo ho lavorato in sartoria, sì, di conseguenza mi sono occupato per molto tempo di tessile. Ho aperto la mia ditta e faccio tessile d'arredamento praticamente. Devo dire che da allora mi è cambiata davvero la vita, mi è cambiata anche dal punto di vista economico, nel senso che sto meglio. Che come dipendente è stato Angelo, lei è stato coraggioso, è andato altrove, ma non nel senso di cui parlavamo prima con Gianna Schelotto. Gianna, sì, ma è proprio questo il senso, cioè è a 50 anni che ci si interroga su ciò che si ha e ciò che invece avremmo desiderato di avere e qualche volta si fa il passo per cercare di recuperare quello che volevamo. E quindi, che ne so, una vita da impiegati in un lavoro che non ci gratifica, oppure una compagna con la quale non si va d'accordo da tanto tempo, oppure vivere in un luogo che non ci piace mentre ne sogniamo un altro. Allora il gesto di coraggio, i 50 anni sono proprio la boa, cioè a quel punto che uno dice a se stesso o decido adesso o non lo faccio mai più, ed è lì che si trova il coraggio di fare dei cambiamenti importanti. Mi scrive Franco da Trento, 53 anni, 3 figli, la prima è avuta 45 anni, andare con lo skateboard al parco, vado sulle altalene con loro e mi comporto insomma come un ventenne, sono ridicolo e rischio di perdere autorità, Alberto. Ma direi che quello che fa Franco è una cosa che succede a moltissimi uomini, cioè che sono effettivamente anche biologicamente molto più fortunati rispetto alle donne, nel senso che la paternità l'uomo può proprio metterla in qualsiasi momento del suo ciclo di vita, ed è proprio una caratteristica comune che uomini dopo i 40 decidono di diventare padri. Si accorgono di avere molto vissuto, di aver molto dato al proprio progetto professionale e a quel punto si buttano in una nuova esperienza di vita come quella della paternità, che è veramente... che cambia vitalistica, sì. Poi apre nuove prospettive e cambia completamente la vita. E torniamo ad occuparci di noi, dei cinquantenni, di chi li ha superati e di chi sta veleggiando verso questo traguardo importante che direi nella nostra generazione è molto cambiato, Alberto, e si parla di seconda nascita, no? È un termine che la psicologia quasi sempre usa per gli adolescenti ed ora sempre più spesso questo termine invece viene attribuito a noi cinquantenni. Secondo te che cosa c'è di... qual è il denominatore comune, se esiste, tra l'adolescente e il cinquantenne? Ma direi la parola è la parola progetto, avere ancora progettualità, e secondo me questo è proprio un po' il nodo di svolta. Se uno ha 50 anni tira i remi in barca, nel senso che dice tutto quello che dovevo fare l'ho fatto, è praticamente finita, il versante che decide di percorrere è un versante depressivo e fondamentalmente non ci sono più aree di innovazione, di esplorazione, aree proprio per tirare fuori da se stesso il cinquantenne che c'è dentro e che non sa bene come è fatto. Se invece l'approccio è proprio un po' quello dell'adolescente, cioè la vita è ancora un laboratorio, una palestra dove ogni giorno posso perseguire un piccolo oppure un grande progetto, ci si può davvero rimettere in gioco in modo come non potevi fare prima magari, e a quel punto la vita ha davvero... io a moltissime persone quando mi dicono 45-50 anni rispondo: hai ancora davanti a te almeno metà della vita che ti aspetta, come decidi di giocartela? 800-24-0024, una domanda che giro anche a voi. Ma Gianna, ci sono, a proposito di adolescenti, cinquantenni, uomini o donne, che a volte si comportano proprio come degli adolescenti e magari vanno a recuperare storie che avevano interrotte di quando erano magari ragazzi. Sicuramente adesso la tecnologia ci aiuta e internet e tutto quello che ci sta dentro e intorno si trasforma in una piattaforma della vita. sì, perché accade a 50 anni di aver voglia di cambiare qualcosa, cioè di trasformare i 50 anni non in un malinconico punto di arrivo, ma in un punto di partenza. Bisogna decidere se questo punto di partenza può portare in avanti o se porta indietro. Qualche volta molte persone si lasciano portare indietro, cioè vanno a cercare di rivivere le cose che si sono lasciate indietro nell'adolescenza, per cui per esempio attraverso Facebook si ricontattano vecchi amori, delle storie che erano morte e sepolte che all'improvviso sembrano riassumere nuove dimensioni, nuove passionalità, colorazioni affettive insolite, e in qualche modo queste persone invece di avventurarsi verso un futuro, verso un progetto, come si diceva prima, per gli anni che stanno davanti, si rifanno indietro per paura di affrontare il nuovo. E quindi nascono questi amori che erano amori finiti, e nascono queste passioni che sono proprio di stretta marca adolescenziale. Giada ci scrive: grazie a Facebook ho riscoperto un amore dei tempi dell'università, è stato il mio regalo dei 50 anni. Giada si vede che ha recuperato questo amore ed è contenta. Vediamo come, se è contento Pierluigi della provincia di Bergamo e se è pronto con noi a fare una sorta di bilancio. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno dottoressa, io lo ascolto sempre, complimenti per il programma. Grazie. Io ho 52 anni e il mio progetto di vita, diciamo, è stato accolto positivamente, nel senso che sono diventato papà, ho adottato due bambini e quindi io sono convinto che si torna indietro e il progetto deve esserci, perché noi 50 anni, i 50 anni possono dare tanto e come diceva prima il dottore, abbiamo ancora davanti tanti anni nella nostra vita. Io sono molto felice e quindi penso che valga la pena di progettare sempre qualcosa di nuovo. Pierluigi, avrebbe fatto questa scelta a 40 anni, ad esempio a 38, perché oggi? Oggi perché chiaramente, a parte i tempi, l'ho fatta anche che sono lunghi, ma comunque a 40 anni non ho potuto farla perché chiaramente avevo dei problemi a livello familiare con i miei genitori che diciamo non stavano bene, quindi sì, abbiamo dovuto io e mia moglie accudire e quindi abbiamo perso del tempo che comunque può essere sempre recuperato se uno ci crede, e io e mia moglie ci avete creduto. Grazie Pierluigi per essere intervenuto, buona giornata. Buona giornata. Saluto ai suoi bambini, a sua moglie. Franco ci chiama dalla provincia di Venezia, un invito alle mie ascoltatrici perché parlano solo gli uomini oggi. Franco, buongiorno, anche noi cinquantenni abbiamo tante cose da raccontarci. Buongiorno a lei, Franco. Buongiorno anche a lei, dottoressa. Niente, io volevo raccontare questo aneddoto che 2 anni fa circa mi sono sposato e ora ho 50 anni e nei momenti più X della sua vita, di mia moglie in questo caso, ho aiutato a superare la fatidica menopausa e adesso come adesso siamo veramente, è una costruzione a mattonelle, però è stato un investimento vero, pur un vero investimento. Franco, mi è piaciuta, è stata una costruzione a mattonelle. Alberto, anche tu. Direi che ti ho visto sorridere per soddisfatto. Direi è vero, che è una, rende bene l'idea. È una storia bellissima, perché uno pensa che a 50 anni magari in amore bisogna cambiare tutto. Invece siamo noi che stiamo cambiando e possiamo proprio cambiare lo stile di coppia, i nuovi progetti con la persona con cui abbiamo condiviso la vita. Secondo me riprogettare anche la propria vita amorosa e affettiva non vuol dire doversi trovare una che ha 20 anni meno oppure un'altra persona, ma significa andare a scoprire cosa di nuovo ora che ho per esempio passato magari le fatiche della genitorialità, ora che il lavoro non cresciuti, è più una preoccupazione, cosa ci può riservare di nuovo. Ci sono dei cinquantenni, sessantenni che scoprono la passione del viaggio, proprio dell'esplorazione, a volte anche molto selvaggia, di cose che non hanno potuto vedere o fare prima. In linea con noi un'amica, Lella Costa. Ciao Lella. Ciao, buongiorno a tutti. Lella, 50 anni, per tutte noi è un bel traguardo. A te cosa ha portato? Secondo te sei andata in un continuum, come diceva Alberto, oppure li hai aspettati con qualcosa è cambiato? Ma io ho avuto l'enorme privilegio, l'enorme dissennatezza, forse se vogliamo, ma insomma è la vita che è andata così, di fare la mia ultima figlia che ne avevo quasi 45. Quindi per me i 50 anni sono stati tre figlie, di cui ancora una piccola e un'altra poco più grande, e quindi, come dire, questo ha dato una scansione del tempo, appunto una continuità, ma anche un ricominciare da capo anche biologicamente, no? Cioè rimetti in circolo ormoni, energie, vitalità, ed è sicuramente tutto un po' più difficile, un po' più faticoso, ma ho anche questa sensazione di essere stata benedetta dalla vita, e quindi non l'ho vissuta tanto come un trauma, sicuramente come un passaggio complicato, una cosa, cioè non complicato, difficile, appunto, tutto ciò che è nuovo sì. È difficile, ed è difficile decifrarlo, anche perché io appartengo a una generazione, appunto, che ha conosciuto per la prima volta il protagonismo dell'essere giovane, no? Sì. Fino agli anni 60 i giovani non se li filava veramente nessuno, di colpo sono diventati protagonisti e sono riusciti a restare protagonisti sempre. L'unica cosa che vorrei dire è che non debba diventare un obbligo questo essere per sempre, cioè anche concedersi proprio il lusso ogni tanto di dire: sai, la novità, sono stanco. Mi siedo. Cambio passo. Senti, Leila, ma guardandoti intorno, che cosa vedi nei cinquantenni? Uomini e donne, differenze, che cosa ti piace e non ti piace di questi cinquantenni di oggi? Ma mi piace molto di più, ovviamente mi piace moltissimo l'energia, il fatto di non pensare che sia una svolta della vita negativa, che ci sia ancora così tanto tempo davanti, questo è dovuto a tanti fattori, no? Ci terrei a sottolineare che dipende anche molto da con che tipo di autonomia, soprattutto per le donne, autonomia anche economica, oltre che fisica, proprio di salute, si arriva a questa tappa, perché questo conta molto. È chiaro che uno può scoprire la passione per i viaggi e per fare tante cose, ma se deve non avere hai mezzi, la salute e i la soldi. Salute e mezzi. Quindi ecco, quello che mi piace meno è questo, appunto, questa equivalenza, questa equazione bellezza uguale giovinezza, e questo volersi a tutti i costi omologare a certi criteri estetici, ma anche un po' prestazionistici, non so come dire, per cui allora non si cerca di mantenere e deve stare bloccati anche come aspetto fisico in un'età sospesa. Questo non mi piace, il che non vuol dire che non si debba fare il meglio per stare bene, per piacersi, però mantenendo il proprio essere speciali, ecco, che ha a che fare anche col passare del tempo, credo. Saluto un'amica speciale, Leila, è sempre un piacere averti con noi. Grazie. Un abbraccio a tutti. Un saluto alle ragazze. Grazie a Leila Costa, 824-0024, Gianna. Sì, Leila ha detto delle cose sacrosante, e cioè che i 50 anni vanno goduti per quello che sono. Per fortuna il tempo è cambiato, i nuovi farmaci ci consentono di vivere i 50 anni in salute, abbiamo sconfitto gran parte degli aspetti negativi della menopausa, gli uomini hanno sconfitto l'ansia da prestazione con il Viagra, quindi ci sono a disposizione tanti mezzi per sentirsi giovani, ma bisogna vivere la gioventù dei cinquantenni, non ostinarsi a cercare la gioventù dei trentenni. Infatti bisogna godersi i 50 anni con la testa dei 50 anni. Ed eccoci qui, cari cinquantenni e non, 824-0024, se volete intervenire per parlare di questo, possiamo definirlo traguardo, Gianna? Rimane sempre un traguardo, no? Roberto, un passaggio, vedi? Dire, un confine. Brava, vedi che non a caso, oltre a essere psicoterapeuta, sei scrittrice e giustamente mi suggerisci la parola giusta. Roberta da Padova, buongiorno. Grazie, allora. Perché io ero un po' preoccupata, ho detto, le mie amiche dove sono? Allora, io sono una giovane donna, ho 33 anni, ma ho stravolto la vita, all'epoca un quarantenne, adesso ovviamente un cinquantenne. Sì. E il mio, abbiamo due figli. Sì. E la mia così difficoltà è che lui è entrato nella pseudo, non so come definirla, crisi depressiva del cinquantenne. E per me, ovviamente, lui me lo dice sempre, che faccio fatica proprio a comprenderlo, perché ovviamente essendo giovane non la comprendo proprio. E mi piacerebbe sentire, insomma, dai suoi esperti come Gianna. Posso fare con questo mio marito, che amo molto, peraltro. Immagino. Gianna. Proprio perché, come l'abbiamo definita prima, un confine, un passaggio, il cinquantenne può trovarsi anche di fronte ad una sorta di depressione, cioè si rende conto che tutto quello che ha fatto è fatto, e che deve decidere che svolta dare alla sua vita. Questo è tanto è vero che proprio a quest'età spessissimo i cinquantenni si innamorano di ragazzine giovani, ma questi innamoramenti, contrariamente a quello che sembra, sono in realtà dei veri e propri antidoti alla depressione. Cioè la paura di non essere all'altezza di situazione, la paura di non saper scegliere un proprio altrove che li soddisfi, crea in loro una forma di depressione. E in questi casi è importante star loro vicini e soprattutto aiutarli a rendersi conto della ricchezza che c'è nell'autonomia dei 50 anni, alla ricchezza che ci può essere nei nuovi progetti da costruire insieme, da solo, come si vuole, ma che c'è appunto talmente tanto spazio davanti che manca solo il coraggio di dirsi lo puoi fare. Io volevo parlare anche della sessualità. 50 anni anche l'amore cambia e spesso in meglio, lo dicono anche le ricerche. Io credo che ormai ne parliamo anche con amici intimi. Insomma, c'è un nuovo modo di vivere e pensare la sessualità, lo leggiamo anche sui giornali. Nuovo rispetto al passato, quando i 50 anni segnavano la fine. Diverso perché credo ci sia una maggiore consapevolezza. In linea con noi abbiamo il professor Emanuele Iannini. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Docente di sessuologia medica dell'Università degli Studi dell'Aquila. A 60 anni si svolta anche nella sessualità, che diventa più matura, ma non per questo meno appagante. Sì, non c'è dubbio. Dicevo, io ormai sono un testimonial della cosa, perché oltre che insegnare questa materia sono cinquantenne da pochi giorni e quindi sono auguri, entrato. Auguri, auguri. Grazie. Certamente il cinquantenne di oggi è un cinquantenne completamente diverso, il cinquantenne e la cinquantenne ovviamente, è un cinquantenne che ha una consapevolezza di se stesso, del proprio corpo, della propria sessualità, ha di fronte a sé una prospettiva, una speranza di vita che ovviamente lo colloca in qualche modo a metà del percorso e quindi non più già, come si diceva una volta, a scendere dalla collina per così dire, sì, ma al contrario appunto con una prospettiva di vita e di vita sana e di vita di coppia e di vita sessuale particolarmente evidente, particolarmente brillante. Questo ovviamente agisce sulla sessualità, perché il modo con cui ci si rapporta con questo spartiacque è assolutamente cambiato. Ma è cambiato anche perché noi ci sentiamo più aiutati in qualche modo, messi nella condizione di non rinunciare. Guardi, assolutamente sì. Lei pensi semplicemente al fatto che una donna che affronta la menopausa ha a disposizione non solamente ormoni ma tutta una serie di farmaci. Un maschio che affronta i 50 anni ha questa grande rivoluzione che è stata il Viagra, oppure questa nuova medicina che si chiama Prilosec per l'eiaculazione precoce, cioè per i più frequenti disturbi sessuali, ha un supporto, come dire, tecnico, farmacologico, che è presente per entrambi i sessi, che ovviamente costituisce, non necessariamente perché debba essere usato, ma come appunto una risorsa che è lì presente nel caso che per l'appunto sia in qualche maniera necessario. Bene, questo cambia completamente la prospettiva del maschio stesso. Del maschio e anche della donna, professore. L'abbiamo detto, certo. Anche della donna, giustamente. È tutta una questione di testa, possiamo dire così? Lo è completamente. Il principale organo sessuale non sta tra le gambe, ma sta tra le orecchie, vale a dire il nostro cervello, ovviamente. E quindi è certamente una questione di testa, di percezione, di immagine di se stesso. È ovvio che quando si raggiungevano i 50 anni, una volta, quando appunto non c'erano queste medicine, non c'erano questi ormoni, non c'erano soluzioni, è chiaro che i rintocchi di quel compleanno suonavano fondamentalmente come la fine della propria vita sentimentale, della propria vita sessuale. Invece ora è, come dire, è un nuovo inizio. Un nuovo inizio. Grazie al professor Iannini per essere stato con noi. Buona giornata e auguri a voi, ancora. A andiamo a Margherita che ci chiama da Messina. Buongiorno Margherita, benvenuta. Buongiorno, chiamo da Reggio Calabria. Ah, Reggio Calabria. Sì, sì. Senta, io volevo... L'hanno traghettata, visto? Che cosa fanno qua? Eh? Io ho 50 anni già compiuti, non prendo medicine, non sono ancora in menopausa, non ho avuto crisi depressive, ho ancora ragazzi da portare a scuola la mattina, da aiutare a fare i compiti, perché la più piccola mia figlia ha 12 anni. Quindi, sì. Quindi proprio Margherita. Ho partecipato, ho cantato a un musical, l'ho recitato insieme a lei, visto che lei era molto timida, per aiutarla mi sono iscritta anch'io, ho fatto questa esperienza bellissima insomma, per quindi me una vita assolutamente proprio, piena. Mi dicevano, vedi che a 40 anni avrei la crisi dei quarantenni e non l'ho avuta, a 50 anni avrei la crisi dei 50, ancora non, non ho avuta. Avuto nessuna crisi. Ho un marito bellissimo che mi adora e che io amo, quindi... Evviva, evviva Margherita. Gianna, chiudiamo con questa, questa storia a lieto fine che continua. Quando noi, quando parliamo di crisi non è detto che debba toccare tutti la crisi, anche se io penso che una crisi comunque è un suggerimento, è un'esperienza che ci aiuta a entrare in contatto con noi stessi. Quindi va benissimo la signora che, avendo ancora una bambina da allevare, non si è ancora dislocata nella zona delle persone di 50 anni che hanno già i figli fuori casa, che hanno già tutta una serie di prospettive diverse e quindi che si possono riprendere la vita per se stesse. Cioè, una volta allevati i figli, pagate le rate della casa, sistemati i doveri che di solito le donne hanno fino ai 50 anni, finalmente ci si può riprendere la vita. Ma non è detto che lo si debba fare per forza. La signora di Reggio Calabria è ancora nel pieno della sua attività di mamma e di persona che si identifica con l'entusiasmo della figlia, quindi va bene così. Voglio leggervi un sms. Ho 43 anni, sono alla ricerca di non so cosa. Sentire la trasmissione mi ha messo di buon umore perché ho ancora tempo per farlo. Saluto Gianna Schelotto, grazie Gianna per essere stata con noi, è sempre un vero piacere. Grazie a voi e a tutti voi. Alberto, allora tu ti prepari per questi 50 anni? Ho preso appunti, come spesso faccio nella tua trasmissione, e comincio a definire le mie. Va bene, le io mie ti mete. Terrò d'occhio. Grazie a Filippa Oreggi in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Domani siamo di nuovo qui dopo il GR delle 11. Intanto date un occhio alle vostre ginocchia, come sono, ossute, secche, tonde, cicciottelle. Domani ne parliamo.